Progress, quando la tecnologia diventa per tutti. Mi chiamo Samora Mbeke, vivo non lontano da Bamako, capitale del Mali. Ho 24 anni. Un anno fa sono caduta dal camion che trasporta la manioca al mercato della città. Ho battuto la testa, mi hanno portato in ospedale, ma ero grave. Avevo bisogno di un intervento urgente. Nell'ospedale di Bamako non si poteva fare un intervento così difficile. I medici però si sono collegati via internet con Parigi, con un ospedale nel quale sanno fare questi interventi. E i dottori francesi e quelli di Bamako mi hanno operato, lavorando insieme. Oggi qui in studio abbiamo Vittorio Romeni, che è chirurgo e ricercatore nel campo della robotica per usi medici. Ecco, dottore, questi interventi di telemedicina sono fantascienza o realtà? No, non fantascienza. Le tecnologie ci sono e funzionano. Si può governare un robot chirurgo agendo a grande distanza e controllando i movimenti con grande precisione. Beh, naturalmente in loco deve esserci una presenza di medici e di relativi assistenti. E quali sono i vantaggi di questi interventi? Vantaggi. Non è un solo problema di capacità di intervento, che è certamente un aspetto importante. C'è anche il fatto che in grandi centri è presente un'esperienza correlativa documentazione che in tanti piccoli ospedali non possiamo trovare. Progress vi aspetta domani alle 18:30 su Radio 24, in collaborazione con Ford.